giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Raffreddori, mal di gola, febbri e stagione di sintomi influenzali che appaiono già abbastanza diffusi nella popolazione ed è in corso la campagna vaccinale che sta ottenendo un buon riscontro. Centri islamici di Monfalcone, il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di sospensiva del Comune, ma c'è attesa per la decisione nel merito dei giudici amministrativi. Alla Casa Bianca torna Donald Trump. I repubblicani conquistano la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Nel GR, con gli esperti dell'Università di Trieste, sentiremo l'analisi delle conseguenze del voto americano. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Gorizia, intervenuti per un vasto incendio che ha devastato la palazzina del civico stabilimento Bagni, edificio storico chiuso ormai da 30 anni. Non ci sono persone coinvolte. Cercano di farsi un'idea più chiara sul futuro i 7.000 ragazzi arrivati da tutta la regione e dal Veneto alla fiera di Pordenone per Punto d'Incontro, il salone dell'orientamento, della formazione e del lavoro in programma oggi e domani. Acque ancora agitate nelle valli del Natisone, dove pare non sia stato ancora risolto del tutto il caso del presunto inquinamento della rete idrica locale con idrocarburi che hanno reso maleodorante e imbevibile l'acqua del comune di Savogna. Ieri sera in comune c'è stato un summit con gli esperti. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni per ora Antonio Cagliazza, in arrivo con noi in studio anche Maria Spezia. E dunque in corso la campagna vaccinale contro l'influenza, i sanitari consigliano soprattutto ai soggetti più fragili di effettuare anche la vaccinazione anti-Covid. Dai primi riscontri la campagna sta ottenendo una buona adesione. In Friuli Venezia Giulia l'influenza non è ancora arrivata, ma la campagna vaccinale sembra funzionare. Il primo novembre risultava immunizzato quasi il 23% degli over 65 contro il 14% del 2023. Cristina Zappetti, responsabile della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Siamo lontani ancora dall'obiettivo che viene dato a livello ministeriale Però insomma vediamo che l'adesione in queste prime due settimane è veramente molto buona. Aumenta anche il numero di bambini fra 6 mesi e 6 anni. È stato immunizzato quasi il 10% contro il 4,76% dello scorso anno. Sicuramente le campagne di informazione, la popolazione è molto più sensibile. Gli operatori sanitari sono diciamo molto attenti, anche coinvolti per i soggetti a rischio e anche i punti di erogazione sono stati aumentati, quindi questo sicuramente facilita le adesioni. Un contributo importante quest'anno l'hanno dato le circa 70 farmacie dove è possibile immunizzarsi in Friuli Venezia Giulia. Hanno già somministrato 4.115 dosi contro le 843 dello scorso anno. C'è tempo per vaccinarsi gratuitamente fino al 31 gennaio, ma prima si fa e meglio è, perché l'immunizzazione inizia 2 settimane dopo l'iniezione e dura 6 mesi. Quanto alla vaccinazione anti-Covid, questa è decisamente meno popolare. 9 vaccinati contro l'influenza su 10 rifiutano di farla. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nuova tappa nella vicenda giudiziaria che a Monfalcone oppone il comune ai 2 centri islamici. Il Consiglio di Stato, con le 3 ordinanze depositate ieri, ha accolto la domanda dell'amministrazione comunale di sospensiva dell'attività religiosa svolta dalla comunità, ravvedendo un fumus boni iuris, cioè una parvenza di buon diritto. Le parti restano intanto in attesa del giudizio di merito definitivo. Il Consiglio di Stato, accogliendo l'istanza del Comune di Monfalcone, non sospende l'efficacia della sentenza del TAR sui provvedimenti emanati dal Comune di Monfalcone per il cambio di destinazione d'uso degli immobili utilizzati dai centri islamici Baitus Salat e Darus Salam. Il Collegio però ha ammesso la parvenza del buon diritto applicando l'articolo 55,10 del Codice del Processo Amministrativo e ha fissato la discussione in merito per l'11 febbraio 2025. Soddisfazione da parte del Comune di Monfalcone, rappresentato dall'avvocato Teresa Bigliani, ma soprattutto dall'ex sindaca Cisindi, che dichiara esce rafforzata in attesa del giudizio definitivo la linea di legalità e trova conferma la serietà e la correttezza del nostro operato. Le norme devono essere rispettate da tutti senza privilegi inammissibili, siano esse rivolte ai semplici cittadini che alle associazioni islamiche. Vincenzo Lattorracca, avvocato delle associazioni Baitussalat e Darussalam, scrive in una nota: il Consiglio di Stato ha ritenuto da un lato che i motivi siano da approfondire nella fase di merito e dall'altro il bilanciamento degli interessi assicurato dalla fissazione a breve dell'udienza pubblica. L'ordinanza si mostra dunque equilibrata e non pregiudica le ragioni delle associazioni. La vicenda risale a dicembre dello scorso anno, quando l'allora sindaca Cisinta, adesso europarlamentare, ha emesso ordinanze che ostacolavano il culto ai 6.000 bengalesi che vivono a Monfalcone, vietando l'utilizzo di un piazzale privato considerato dal comune come un'area di cantiere. Seguì una grande manifestazione dopo la chiusura dei luoghi di riunione a marzo di quest'anno, il ricorso al TAR vinto dalle associazioni islamiche. Adesso la palla passa al Consiglio di Stato. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Si sono concluse con la vittoria di Donald Trump le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. I repubblicani hanno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Sconfitta Kamala Harris. Vediamo che conseguenze avrà questo sulla nostra economia e sulla politica europea. L'America vira a destra, ha vinto il voto repubblicano e Donald Trump sarà il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Kamala Harris ha conquistato gli stati occidentali e quelli nord-orientali, ma il cuore dell'America batte per Trump e per Melania Trump, che sarà di nuovo First Lady. Trump ha vinto contro una donna, come già nel 2016 contro Hillary Clinton. Dai sondaggi emerge che gli elettori vedono in lui la possibilità di risollevarsi economicamente in un'America dove il potere d'acquisto è crollato. Ci saranno conseguenze per le aziende che esportano negli Stati Uniti? Leonardo Buonomo, presidente dell'Associazione Italiana di Studi Nordamericani e professore di letterature angloamericane dell'Università di Trieste. Trump ha preannunciato l'imposizione di tariffe su prodotti importati dall'estero e questo può avere degli effetti negativi sull'economia europea e di altri paesi, e inoltre potrebbe smentire una delle sue principali promesse, cioè quella di abbassare l'inflazione. Trump in campagna elettorale non ha nascosto un certo disprezzo per l'Unione Europea, fatto salvo il suo alleato Orban, attuale presidente del Consiglio dell'Unione Europea, e ha promesso la pace in Ucraina. Elisabetta Vezzosi, professoressa all'Università di Trieste di Storia degli Stati Uniti d'America. Quello che si può dire, non che la guerra finirà domani, ma sicuramente che verranno tagliati i fondi o una parte dei fondi per l'aiuto all'Ucraina. Quindi bisogna vedere se le dichiarazioni della campagna elettorale, che pure sono andate in questa direzione di attacco, messa in discussione della NATO, poi si tradurranno veramente in una posizione negativa o cercando di creare una crisi all'interno di questa organizzazione. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti nella notte per un incendio scoppiato in via Cadorna nell'immobile in disuso degli ex bagni pubblici Rogo, che non ha causato feriti. Tre squadre impegnate con due autobotti e due autoscale. L'intervento dei vigili del fuoco in via Cadorna è stato complesso perché l'edificio ha delle parti pericolanti e numerose strutture interne, tra cui le travi e i solai, sono in legno. Non c'era energia elettrica, quindi improbabile un cortocircuito. Secondo alcuni vicini, all'interno vi erano sporadiche attività di spaccio. In questo momento si sta lavorando alla rimozione della copertura in lamiera che era stata sistemata 8 anni fa per proteggere gli interni dopo il crollo del tetto. La proprietà dell'immobile è del comune di Gorizia. Sentiamo l'assessore al welfare Silvana Romano. Eravamo preoccupati che all'interno ci fosse qualcuno, invece i vigili del fuoco mi hanno rassicurato. Certo, l'incendio ha fatto tanti danni, però posso dirvi che un immobile che era sempre attenzionato, più volte abbiamo cercato di trovare delle soluzioni, abbiamo fatto anche dei bandi, ci sono stati degli interessi dei privati, ma le belle arti che chiedevano la tutela dell'immobile e quant'altro ha fatto scappare più di qualche persona interessata. L'edificio in realtà è testimone della fase storica in cui Gorizia era la Nizza d'Austria, realizzato nel 1878 dall'architetto Leopoldo De Claricini Dornpacher, rispondeva alle usanze dei militari ungheresi ed austriaci che trovavano nei vapori dei bagni turchi momenti di ristoro e socialità. Nel suo giardino l'impianto aveva anche una piscina. Gorizia, Maurizio Merva, RTGR, Friuli, Venezia Giulia. Sono attesi oltre 7.000 studenti da tutta la regione, anche dal Veneto orientale, alla 16ª edizione di Punto d'Incontro, la fiera dedicata all'orientamento, alla formazione e al lavoro, è intesa a fornire strumenti ai più giovani per scegliere in modo consapevole il proprio futuro. Oltre 50 le scuole coinvolte nella due giorni. Io ho tante idee ben confuse. Non ho ancora le idee bene chiare, però siamo qua apposta. Cercano di farsi un'idea più chiara sul loro futuro i 7.000 ragazzi e ragazze arrivati da tutta la regione e dal Veneto in fiera a Pordenone per il Salone dell'Orientamento, Formazione e Lavoro, Punto di Incontro, in programma oggi e domani. Antonella Santin, del Centro Orientamento Pordenone Udine della Regione Friuli Venezia Giulia. Hanno bisogno di informazioni chiare, hanno bisogno poi di integrare queste informazioni in quella che è la loro personalità, in quelle che sono le loro caratteristiche, le competenze, le attitudini, gli interessi, per poter poi individuare un percorso di istruzione e di formazione che sia il più possibile coerente e soddisfacente per loro stessi e che possa portarli poi a dare un contributo alla comunità. Lara Mallis, della Consulta Provinciale Studenti, Pordenone. Noi siamo curiosi di scoprire queste realtà della provincia, della regione. È molto importante, oltre alla scelta università, anche poi gli sbocchi lavorativi. Sono 120 gli stand tra scuole, accademie, ITS, università. Simone Franzo, Consorzio Universitario di Pordenone. È molto richiesto, come sempre, banca e finanza, infermieristica, così come tutte le discipline sanitarie che fanno sempre il pienone. Da quest'anno abbiamo anche la fortuna di ospitare dietistica dell'Università di Trieste e dal prossimo anno anche igienista dentale. Ci sono anche agenzie del lavoro, associazioni di categoria, forze dell'ordine e aziende. Mattia Milani è direttore ANCE Alto Adriatico. Siamo comuni in una fase di cambiamento, ma le imprese sono sempre alla ricerca di personale, di professionisti, non solo di figure di base ma anche di personale specializzato da inserire in azienda. Nel pomeriggio un recruiting day dedicato al mondo del turismo e della ristorazione. Giampiero Zanolin, presidente Federalberghi Pordenone. È un mondo che soffre, soprattutto gli alberghi, ma soprattutto pubblici esercizi e ristoranti, e oggi sarà una grande occasione per fare un recruiting day dove andremo a vedere diverse persone per cercare di capire se hanno voglia di cominciare a lavorare con noi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Confindustria Friuli Venezia Giulia critica duramente le disposizioni del disegno di legge bilancio 2025, in cui si prevede la presenza di rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze negli organismi societari di aziende che ricevono contributi pubblici superiori ai 100.000 euro. Il presidente Pierluigi Zamò definisce la misura come un'inutile delegittimazione degli imprenditori e dei professionisti già coinvolti nei controlli, come i commercialisti e i revisori. Zamò sottolinea che l'introduzione di un controllo ministeriale appare eccessiva ed esprime sfiducia nei confronti delle imprese già soggette a monitoraggi e oneri significativi. Confindustria chiede quindi l'eliminazione di questa misura. A Remanzacco è ripartito dal 18 ottobre, dopo che era stato chiuso a causa del Covid, l'ambulatorio Mamma Bambino. L'assessora Anna Rita Durì ci ha spiegato quali aiuti cercano le neomamme. Dal 18 di ottobre ha riaperto questo ambulatorio Mamma Bambino. Che cosa trovano qui le mamme? Trovano un'accoglienza data da una professionista all'ostetrica che accoglie appunto la mamma e il suo bambino, dà dei consigli su quello che è il corretto stile di vita e benessere sin dai primi momenti di vita. La prenotazione avviene in distretto, c'è un numero di telefono nella locandina. Questo numero di telefono rispondono i professionisti della salute che poi indirizzano per la prima visita ginecologica, per tutto quello che è il percorso di assistenza al bambino. Che risposta c'è stata in queste prime settimane da parte delle mamme? Quante vengono? Di cosa hanno bisogno? Il bisogno è quello di essere aiutate ad orientarsi, un corretto svezzamento, allattamento, tutte le piccole cose che portano un bambino a crescere. Cosa dà in più rispetto ai servizi che già ci sono? Sicuramente il fatto di essere in un luogo, in una struttura dove ci sono altri professionisti della salute, ci sono i medici di medicina generale, c'è uno sportello comunale di comunità, psicologico e logopedico, che possono aiutare poi quello che è non solo l'azione mamma-bambino, ma anche quello che è la relazione del contesto familiare, piuttosto che di tutto quello che può essere appunto una difficoltà o un modo diverso di affrontare una realtà nuova, insomma. E poi ci sono anche altre associazioni che si occupano di altri aspetti e di altre età della vita delle nostre persone, dei nostri concittadini. È un'attività fatta in una comunità che deve riscoprire il piacere di accogliere una vita, che è una cosa preziosissima. Sappiamo qual è la problematica demografica che stiamo vivendo tutti quanti, quindi è una comunità che si prende carico e non delega alla mamma. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Durante la manifestazione velica barcolana, i militari della Guardia di Finanza di Trieste hanno intensificato i controlli sul territorio, eseguendo verifiche su oltre 1000 persone e 500 veicoli. Dal comunicato emesso solo oggi si rileva che sono state inflitte 6 sanzioni per movimentazione transfrontaliera illecita di valuta e sequestrati animali trasportati illegalmente. Inoltre sono state riscontrate irregolarità fiscali in 14 esercizi commerciali ed è stata scoperta la vendita di oltre 2000 articoli senza etichettatura, che sono stati dunque sequestrati per motivi di sicurezza. Al termine dell'evento sono stati poi controllati anche 15 soggetti economici e oltre 40 lavoratori per verificare la regolarità dei contratti e le norme di sicurezza sul lavoro. Il caso del presunto inquinamento della rete idrica nelle valli del Natisone, che ha reso l'acqua maleodorante e imbevibile in diverse località, non è ancora del tutto risolto. Secondo l'ingegner Battiston del Consiglio del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, l'inquinamento sarebbe stato causato da un errore nella manutenzione di una pompa. Acque ancora agitate nelle valli del Natisone, dove pare non sia stato ancora risolto del tutto il caso del presunto inquinamento della rete idrica locale con idrocarburi, che hanno reso maleodorante e imbevibile l'acqua dei rubinetti nel comune di Savogna e in una mezza dozzina di località. Ieri sera in comune nuovo summit con l'ingegner Massimo Battiston, direttore generale del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, rappresentanti dell'amministrazione e cittadini. L'ingegner Battiston ha chiarito le cause del presunto inquinamento, a suo dire ora risolto, un errore di manutenzione di una pompa dell'acquedotto commesso da un ente terzo specializzato. Sembra sia stata utilizzata una miscela solvente errata che potrebbe essersi mischiata nell'acqua potabile. Nonostante l'intervento è stato sottolineato come l'odore di idrocarburi sia ancora presente in diverse località del comune di Savogna, tra cui le frazioni di Ieronizza, Dus, Stermizza, Barza e Montemaggiore. Secondo le analisi preliminari condotte da CAFC e confermate dall'azienda sanitaria, l'acqua risulta potabile con idrocarburi al di sotto della soglia massima consentita. Sono però attesi i risultati delle analisi chimiche complete per avere un quadro definitivo. CAFC sta anche valutando un intervento di pulizia delle tubature. In chiusura dell'incontro, i cittadini di Ieronizza hanno consegnato una terza lettera indirizzata a CAFC e Comune, dove in 14 punti si chiede con fermezza il ripristino della potabilità dell'acqua in modo sicuro e immediato e anche un indennizzo per i disagi e i costi aggiuntivi affrontati durante la crisi idrica. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed ora la situazione meteorologica. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 16 gradi e mezzo, a Udine e a Gorizia 16, a Pordenone 15 e mezzo, a Forni di Sopra e a Piancavallo 14 gradi e 5, a Tolmezzo 12, Sappada 6, Tarvisio 3, sul Monte Zoncolan 10 gradi, sul Monte Lussari 9, a Grado 16, a Lignano 14. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature ad alta quota. Sulla costa in serata soffierà borino, 0 termico a 3200 metri circa. Il progetto RISE, sviluppato dall'Università di Trieste e dall'azienda spin-off Picosats, ha portato in orbita un prototipo innovativo di microsatellite modulare, progettato per essere più leggero, efficiente e facile da produrre rispetto ai modelli tradizionali. Il dispositivo, un cubo in plastica stampata in 3D, integra i circuiti elettrici direttamente nella sua struttura, migliorando la robustezza e riducendo i costi. Testato sulla Stazione Spaziale Internazionale dal 6 novembre, il satellite potrebbe rivoluzionare il mercato dei microsatelliti, con applicazioni che spaziano dall'osservazione della Terra alle telecomunicazioni. Il progetto, avviato nel 2018, è stato finanziato dall'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, e capita nell'anno del centenario dell'Università di Trieste. Si intitola Il Punto Critico, l'evento dedicato ad attualità, giornalismo, neuroscienze, educazione e comunità locali, inteso ad approfondire il punto massimo di tensione in cui le certezze spariscono. Tra gli interventi, quello della comunicatrice della scienza, Agnese Baini, e dell'imprenditore Gio Casini. Appuntamento a Pordenone, al Centro Culturale Zanussi, alle 18.30, a ingresso libero. L'evento propone l'ultimo incontro dell'anteprima del Fake News Festival in programma Udine dal 14 al 17 novembre, in cui 60 ospiti animeranno 20 appuntamenti e due serate a teatro per parlare di discriminazione, intelligenza artificiale, lotta al patriarcato e molto altro ancora. Con Gabriele Franco dell'associazione organizzatrice del festival Prisma APS abbiamo parlato degli obiettivi del festival. L'attualità ci impone di parlare questo tema ogni anno, ce lo impone la vicenda di ogni giorno, il fatto di parlare di propaganda politica, di fake news nel mondo dell'informazione, dell'alimentazione, di salute. Quest'anno però la prospettiva è un po' diversa, cerchiamo di andare oltre, guardare le cose con un occhio diverso, che è quello dello spirito critico, che è il vero antidoto alle fake news. E quindi con questo festival, con questa terza edizione, vogliamo fare un po' l'attività di coloro che seminano semi di pensiero critico per aiutare la cittadinanza, dei più giovani ai più adulti, a muoversi nel contesto di quello che fai ogni giorno e orientarsi fra ciò che è vero e ciò che è falso. Ma secondo voi le notizie false proliferano di più rispetto al passato? Assolutamente sì, perché ci sono nuove forme di profilazione delle notizie false. Uno strumento su tutto, l'intelligenza artificiale, che si fa purtroppo in molti casi creatore di notizie false, di fake, le immagini sulla campagna elettorale da quella americana, le immagini e i video creati nel contesto bellico nelle varie parti del mondo in cui ciò avviene. Secondo lei le fake news proliferano anche perché molta gente si informa sui social network anziché sui dei canali più tradizionali come i telegiornali anziché i quotidiani? Esistono diverse chiavi per provare a risolvere il problema delle fake news. Uno, come detto, è quello di alimentare il pensiero critico. L'altro è anche il ruolo delle istituzioni informative, quindi l'importanza di avere dei soggetti qualificati come sono i giornalisti e le testate giornalistiche che grazie alla loro professionalità e competenza possano fare quel lavoro di mediazione, di interpretazione della realtà e anche quel ruolo di garanzia rispetto al discernimento tra ciò che è vero e ciò che è falso. Una notizia di sport, un annuncio per il basket di A2. Oggi è una giornata di turno infrasettimanale. La APU Udine gioca in casa contro Pesaro alle 20.30, mentre Cividale è in trasferta al Livorno, palla 2 alle 20.45. La sezione di Pordenone dell'Associazione Ambientalista Legambiente ha organizzato in anteprima nazionale la presentazione del libro inchiesta del giornalista Michele Sasso intitolato Montagne Immaginarie, in cui si indaga sui problemi delle terre alte, dai cambiamenti climatici all'urbanizzazione fino al turismo intensivo e al difficile percorso di sviluppo. Appuntamento a Pordenone, all'ex tipografia Savio, in via Torricella, alle 18. Elisabeth Galvan, docente di letteratura tedesca all'Orientale di Napoli, condurrà la conferenza dedicata all'esodo della cultura austriaca all'indomani dell'annessione dell'Austria alla Germania nel marzo del 1938. Conferenza intitolata Lo sguardo profetico sulle masse, Maria Lazar. Tra le pagine di un suo romanzo, il complesso clima politico tra austrofascismo, antisemitismo e spinte nazionalsocialiste dell'Austria nei primi anni 30. Tutto questo a Udine, all'Università, nell'Aula 7 di Palazzo Antonini, in via Petracco, alle 16.15. Si intitola L'Italia nella guerra fredda, la conferenza che sarà condotta da Giulia Caccamo, docente all'Università di Trieste, in cui sarà proposta un'analisi degli anni di contrapposizione politico-ideologica tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale, per mettere in luce le conseguenze postbelliche in Italia, che incisero in modo profondo in regione, e la sua posizione sempre più rilevante nello scacchiere strategico internazionale. La conferenza, organizzata in collaborazione con l'Associazione Partigiana Ampi di Udine, si terrà all'Università della Terza Età in via Piemonte alle 17. Loredana Laimo presenterà il suo libro Gente di Frontiera a Udine alla Biblioteca Ioppi alle 18. Il libro raccoglie le testimonianze delle privazioni e della durissima vita delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale sul confine orientale, fra le valli del Natisone e la Slovenia, fra occupazione tedesca, cosacchi e guerra di liberazione partigiana. I racconti dei testimoni nel testo sono messi rigorosamente a confronto con i documenti storici d'archivio e inseriti nel contesto politico nazionale ed internazionale dell'epoca. L'assistenza tecnica è stata garantita a questa edizione da Paolo Cassano e da Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.